ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Questa è L'Ora di Buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Ancora dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ad amar la patria e la bandiera, noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa... Vi diciamo subito i nostri contatti, anche se interrompiamo questa bellissima sigla, e innanzitutto il telefono se volete parlare con noi, che è lo 06 49 17 50. Ora di buco @ondarossa.info, la mail per contattarci per scritto. Abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me. ondarossa.noblogs.org, il blog su cui potete ascoltare le trasmissioni che sono già andate in onda e leggere vari materiali. Andiamo in voce per questa puntata appunto dell'Ora di Buco, in una settimana che si preannuncia, anzi che è già partita, come abbastanza agitata nel mondo della scuola, nel senso che questa è la settimana che si concluderà sabato 10 con la manifestazione regionale della scuola, di cui andremo presto a parlare, ma insomma un periodo che ha visto e che sta vedendo una mobilitazione che sembra crescere. Vi invitiamo a leggere coordinamentoscuoleroma.wordpress.com, che è il blog del coordinamento scuole di Roma che si è formato recentemente, su cui si possono leggere tutte le iniziative delle singole scuole e del coordinamento del suo complesso, tutte le scuole che stanno aderendo alla proposta, che stanno diventando molte, magari ne andiamo anche un po' a vedere quali sono le iniziative che si stanno dipanando insomma in questi giorni. Ci sono stati flash mob per tre domeniche di seguito davanti al MIUR, di cui insomma da questi microfoni avete sentito anche delle corrispondenze, e lo sciopero a cui gran parte del mondo della scuola aderirà il 14, insomma le iniziative sono tante, quindi bando alle ciance che io sto facendo così introduttive, poco come dire stringenti, e cominciamo a parlare insomma nel concreto delle tematiche di quest'oggi, che vogliono essere appunto le proteste e le forme di lotta che stiamo mettendo in atto. Non so, cominciamo dalla manifestazione? La manifestazione sarà appunto sabato 10 con partenza alle 14.30 da Piazza dell'Esquilino e conclusione a Piazza Santi Apostoli, indetta appunto dal coordinamento delle scuole di Roma. Adesso leggiamo un po' la piattaforma di indizione di questa manifestazione. Allora, tutta la scuola in lotta è lo slogan unificante, e ricordiamo che questa manifestazione comunque è autoconvocata e auto-organizzata. Aderiranno scuole di Roma, docenti, ATA, collaboratori, tutto l'indotto della scuola, ma anche studenti, genitori, quindi si spera sia molto partecipata. Allora, quali sono i punti della piattaforma? No al DDL 953, l'ex Aprea, che attraverso lo smantellamento degli organi collegiali, tappe fondamentali del processo di partecipazione e gestione democratica della scuola pubblica statale, apre le porte alla sua futura e completa sottomissione agli interessi privati. Questo provvedimento pone fine alla scuola statale uguale per tutti e, in contrasto con i principi fondamentali della nostra Costituzione, fa sì che le istituzioni scolastiche siano più e meno prestigiose ed efficienti a seconda del territorio in cui si trovano, a seconda dei maggiori o minori investimenti che avranno e a seconda del reddito familiare degli alunni iscritti. No ai provvedimenti sulla scuola contenuti nella legge di stabilità, che sottraggono 1 miliardo di euro alla scuola pubblica e finanziano di 223 milioni la scuola privata, e che mirano all'abbassamento della qualità dell'insegnamento attraverso l'aumento di 1/3 dell'orario di lavoro degli insegnanti a parità di salario e senza contrattazione. Tale provvedimento avrà come effetto immediato il licenziamento di 30.000 precari della scuola. Si cancellano così gli insegnanti più giovani che nella scuola ci lavorano e la fanno funzionare, e si nega il futuro alle giovani generazioni, compresi gli studenti di oggi, togliendogli la possibilità di trovare lavoro in futuro. No alle politiche di tagli alla scuola pubblica compiute negli ultimi anni, ormai decennio o ventennio, avallate e portate avanti dall'attuale governo. Solo la spending review ha sottratto alla scuola 200 milioni di euro e ha comportato il passaggio forzato degli insegnanti considerati inidonei a funzioni amministrative, misura che avrà come conseguenza il licenziamento dei precari del personale amministrativo, che insieme ai giovani docenti sono stati già colpiti attraverso l'aumento dell'età pensionabile a 67 anni, legge che lede i diritti acquisiti dei lavoratori e li nega ai lavoratori futuri, e verso la quale esprimiamo il nostro netto rifiuto. No al concorso truffa, espediente unicamente propagandistico volto a mascherare i tagli e la mancanza di qualsiasi piano di assunzione a tempo indeterminato sui posti vacanti e disponibili, appena 11.000 posti messi a concorso a fronte dei 120.000 posti vacanti e liste di precarie che raggiungono ormai le 200.000 unità. No al blocco dei contratti nazionali del personale della scuola fermi dal 2009 e per il riconoscimento professionale di tutto il lavoro svolto dai docenti fuori e dentro le classi e della nuova professionale del personale ATA, che da anni è chiamato a svolgere delicate funzioni amministrative dopo lo smantellamento degli organi intermedi. No al piano di accorpamento degli istituti, che significa di fatto nuove tagli al personale e negazione del diritto allo studio. Sono migliaia le scuole soppresse da questo ridimensionamento. Diritto allo studio e scadimento della qualità dell'insegnamento già pesantemente attaccati attraverso l'aumento degli alunni per classe, la riforma Gelmini e i test invalsi. Quindi ricordiamo l'appuntamento di sabato alle ore 14.30 a Piazza dell'Esquilino. E ricordiamo che questa mobilitazione comunque nasce da 3 assemblee autoconvocate che ci sono state a Roma, comunque la manifestazione regionale, sono tantissime le scuole anche della provincia, per non parlare del resto d'Italia, che si stanno mobilitando. E oggi poi c'è in corso, era alle 15.30, un'altra assemblea del coordinamento delle scuole di Roma in previsione della manifestazione che si sta svolgendo al liceo Mamiani. Sì, le scuole appunto sono tante, non so se ha un senso leggervele, insomma, quelle che già hanno aderito, l'Albertelli, l'Ancomarcio, l'Aristofane, l'Aristotele, ovviamente sto leggendo in ordine alfabetico, Bachelet, Benedetto Dannorcia, Bottardi, Caetani, Caffè, Cannizzaro, Carlo Levi, Catullo, Cederna, Colonna, Dante Alighieri, De Pinedo, De Sanctis, Enriquez, Farnesina, Ferrari, Francesco d'Assisi, Galilei, Giorgi, Giulio Cesare, il Gullace, il Joyce di Ariccia, Iucci, Kant, il Labriola di Ostia, Landi, Leonardo da Vinci, Levi Civita, Lombardo Radice, Lucrezio, Machiavelli, Maiorana, Malpighi, Mamiani, Marco Polo, Margherita di Savoia, Mattei, Milanesi, Montale, Morgagni, Nomentano, Orazio, Pablo Neruda, Pascal di Pomezia, Pertini, Piaget, Piazza de Cupis, Pirelli, Primo Levi, Inrighi, il Rossellini, il Russell, il San Vittorino, il Seneca, il Socrate, il Talete, il Tasce, scusate come si chiama, non lo so, il Vailati, il De Bagnera, il Via De Sesami, che è un istituto comprensivo, il Via Leonori, Via Montaione, Via Nicolai, questi sono tutti istituti comprensivi, come anche il Via Ormea, Via Adriatico, Virgilio, il Vivona e il Von Neumann. Così. Sì, è una cosa interessante, noi qualche puntata fa avevamo rilevato all'inizio della mobilitazione che mancavano appunto, erano quasi tutti i licei, no? Sostanzialmente erano licei, invece tantissimi sono, oltre agli istituti comprensivi, anche gli istituti tecnici e professionali. Che peraltro, insomma, sono anche quelli stati più sacrificati e tartassati dalla riforma Gelmini o controriforma, che dir si voglia, come dicevamo appunto qualche puntata fa. E appunto questo corteo autoconvocato, autogestito di sabato prossimo si inserisce in un percorso di lotte che, se andiamo a vedere il sito del coordinamento Scuole di Roma, vediamo appunto parlare dei micro e macro avvenimenti, eventi già passati, e anche nella prospettiva invece della piazza del 14 novembre per il primo sciopero generale europeo insieme ai lavoratori e ai cittadini di tutta Europa per contestare le politiche di austerità imposte dalla Commissione europea e dalla BCE. E quindi, insomma, la prospettiva va oltre la manifestazione chiamata di sabato prossimo, che appunto ci tengo a ribadire, è una manifestazione che vuol vedere in piazza tutte e tutti, insomma, da chi nella scuola ci lavora, a chi nella scuola ci studia, a chi in prospettiva ci potrebbe studiare o ci ha studiato. Insomma, crediamo che la tematica debba necessariamente riguardare tutti. Magari questa mobilitazione si è allargata tra il personale docente su un argomento specifico, come abbiamo più volte rilevato, cioè quello della proposta di aumentare l'orario di lavoro senza aumentare lo stipendio e senza rivedere il contratto, ma in questo momento, insomma, l'idea è quella di allargare la visione e di contrapporsi a un progetto che ormai è molto lungo e non più strisciante ma molto evidente, di smantellamento della scuola pubblica così come la conosciamo, di privatizzazione, aziendalizzazione e di rapporti di lavoro sempre più gerarchici e asfissianti per quanto riguarda chi appunto nella scuola ci lavora. Forse dobbiamo anche cominciare a sfatare un mito che in questi giorni si sta un po' diffondendo, che è il mito del problema delle 24 ore già superato, cioè il fatto che si sente dire, soprattutto tra insegnanti magari un po' più distratti, che la proposta fatta dal governo di inserire nel decreto legge di stabilità appunto questo aumento d'orario a parità di salario e senza passare da una nuova contrattazione sarebbe già stata ritirata, stralciata dal governo, perché la Commissione Cultura ha votato contro. Se però andiamo a vedere questo testo della Commissione Cultura, non è così chiaro, ecco. Sì, infatti, quello che anche rispetto a molti colleghi, anche rispetto a molte persone vicine, ha indotto una certa tranquillità e anche una suggestione, forse, a poter far rientrare forme di lotta che venivano sentite da alcuni come eccessive o poco composte, anche nella dialettica con gli studenti, è stato il parere propagandato dalla stampa della Commissione Cultura come un parere che recedeva sostanzialmente da quelle che erano le 24 ore, che sono state poi l'elemento che ha infiammato la protesta nelle singole scuole. In realtà, andando a leggere questo parere, che è obiettivamente sconcertante, almeno dal mio punto di vista, diciamo subito che questa, diciamo, questo recedere sulla posizione delle 24 ore non c'è, è stata adottata semplicemente una formulazione più morbida per dire quella che sostanzialmente sembra la stessa cosa. Ora io leggo saltando tutta quella che è una prima parte, su cui forse ci dilungheremo anche tra un attimo, che è altrettanto inquietante, però se io vado a leggere al comma 41 ter delle disposizioni della Commissione parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione, leggo che i docenti di ruolo sono tenuti a svolgere un numero di ore settimanali adeguato alla natura e alla complessità del carico di lavoro. In ogni caso, ciascuna istituzione scolastica è tenuta a assicurare un equilibrio interno per quanto concerne diminuzione o aumento del carico didattico, che non può essere inferiore alle 18 ore curricolari. Conseguentemente, se l'italiano non è un'opinione, un qualcosa che non può essere inferiore alle 18 ore curricolari può facilmente essere superiore, e mi pare di intendere che questa, diciamo, questo margine di eccedenza rispetto alle 18 ore potrà essere opportunamente graduato anche dalle singole istituzioni scolastiche. Poi non si capisce come diminuisci se sotto i 18 non ci va, insomma, sì, è un mistero. Diminuisci rispetto all'aumento, appunto, cioè il margine inferiore sono le 18 ore, e questa mi sembra sinceramente nella formulazione una cosa piuttosto inequivocabile. Al di là di questo ci sono tutta una serie di altri elementi in questi pareri che sopprimono i famigerati oramai commi 42, 43, 45 del decreto di stabilità, e che però introducono uno scenario che francamente sembra anche peggiorativo rispetto a quello, se mai è possibile, perché sembrerebbe di leggere una sorta di anticipazione della PREA introdotta forzosamente e surrettiziamente all'interno della legge di stabilità, vero? Sì, infatti, perché se andiamo a leggere alcune proposte, no, di questi emendamenti, c'è scritto che le istituzioni scolastiche si possono associare in rete, e questo peraltro è già una realtà, visto che nella mia scuola c'è una rete, la rete Minerva, che abbraccia diverse scuole della provincia di Roma, e possono deliberare annualmente l'organico funzionale, così c'è scritto, organico funzionale di rete, che è costituito da i posti coperti da personale incaricato a tempo indeterminato, B, i posti da mettere a concorso, C, i posti disponibili per incarichi a tempo determinato, i posti per prestazione d'opera per particolari insegnamenti, e così via. Cioè, di fatto, nella legge di stabilità questo presunto miglioramento, quello che dovevamo salutare come, no, l'addio alle 24 ore visto la protesta, questo miglioramento sta di fatto anticipando la legge Aprea, l'ex Aprea, che vado a leggere nell'articolo 10, e si promuove la realizzazione di reti di associazioni, organizzazioni no profit, consorzi, associazioni di scuole autonome, istituzioni scolastiche, e potranno ricevere contributi economici dai privati, eccetera eccetera. Quindi stanno facendo entrare la Aprea direttamente nella legge di stabilità. Adesso io non so che tipo, come dire, quale soddisfazione o quale abbassamento della guardia noi possiamo ricavare da queste note. È anche peggio di così, per quello che riesco a capire, perché la legge ex Aprea è diventata ex perché la parte che riguardava, diciamo, il personale, cioè che si intitolava quella che si chiamava Aprea, nuovo statuto giuridico degli insegnanti, era stata stralciata per favorire l'approvazione della parte su quella che loro chiamano l'autonomia delle scuole, cioè l'auto-organizzazione. Questa parte che tu hai letto, di fatto, invece riporta in auge quello che era stato tolto dalla proposta di legge 953 ex Aprea, cioè il fatto che gli insegnanti sostanzialmente diventano dipendenti di un'unica scuola o di una rete di scuole, e non è una cosa molto lontana da quella che chiamavamo la chiamata dei presidi. No, in realtà a leggere qui sembra una cosa piuttosto vicina, perché per andare a sopperire alle esigenze di cui tu hai letto all'elenco, per cui posti disponibili per incarichi a tempo determinato, posti da assegnare con contratti a prestazione d'opera. E questo testo, ripeto, il parere della Commissione parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione fa esplicito riferimento alla possibilità di attuare forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal Codice Civile e della legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi del decreto eccetera eccetera. Quindi, se io intendo correttamente, e confortatemi anche in questo, però sono le singole associazioni che vanno ad assumere con forme di lavoro flessibile i singoli insegnanti a questo punto, e quindi salta qualunque concetto di graduatoria se sono le singole associazioni che istituiscono rapporti con i singoli insegnanti. Sì, la gravità è che peraltro il grosso problema che noi abbiamo denunciato sulla legge di stabilità, cioè che va a stravolgere l'organizzazione del nostro lavoro, del lavoro degli insegnanti, della scuola, senza rivedere il contratto, senza rinnovarlo e senza come dire, inserire tutto all'interno di una contrattazione, beh, questo di fatto viene riconfermato, e quindi io credo che bisognerà stare molto attenti. Aggiungo, si parla in queste disposizioni, in questa discussione nella commissione parlamentare, di il trattamento economico dei docenti di ruolo è costituito da una parte fissa e da una parte variabile. La parte di retribuzione variabile è costituita dalla seguente voce: bonus meritocratico. E il bonus meritocratico, eccolo qua, corrisponde a un trattamento retributivo aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse al diverso incarico di lavoro e valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza. Tanto per buttare ancora un pochino di carne sul fuoco, ma poi sarà inevitabile fermarsi, un'altra cosa che a me sembra echeggiare in maniera molto drammatica la ex Aprea è il comma 41 quinquies, vado a leggere: ai fini della definizione dell'organico funzionale, il numero dei posti stabiliti a livello provinciale costituisce il limite massimo della disponibilità di personale dell'istituzione scolastica. All'interno di tale limite, la composizione dell'organico, la formazione delle cattedre, la dimensione delle classi e le modalità di copertura dei posti sono determinati in coerenza con il piano dell'offerta formativa e con gli indirizzi generali di gestione delle singole scuole associate in rete. E questo a me sembra già essere finisce tutta la Finisce il sistema nazionale scolastico e si introduce un sistema privatistico in cui ogni singola scuola diventa un'azienda che si autogestisce, sempre se trova i famosi fondi per aprire il portone la mattina, perché questo non è detto, ecco. Quello che io mi domando è se questo è il parere della Commissione Cultura, cosa mai potrà fare la Commissione Bilancio a questo punto rispetto a questa piattaforma. Poi c'è anche un altro aspetto, no? C'è questa, appunto, questo discorso della parte variabile legata a criteri di efficacia, di efficienza, meritocratici, eccetera. E verrà poi stabilito un bonus a livello ovviamente ministeriale. Però i docenti saranno tenuti a documentare le ore di attività connesse agli obblighi didattici funzionali alla prestazione di insegnamento attraverso un registro annuale predisposto da ciascuna istituzione scolastica in conformità al proprio statuto, da consegnare alla competente direzione regionale scolastica entro il 30 giugno di ciascun anno. La mancata consegna del registro comporta l'irrogazione della sanzione della censura. Qui non si è capito se è un unico registro dove qualcuno, presumiamo il o la dirigente, scrive quello che poi gli pare, oppure è un registro, è qualcosa che deve tenere la singola insegnante, che poi appunto dice abbiamo levato le 24 ore, mi dai pure da tenere un registro. Insomma, è veramente tutto molto molto fumoso. Fra l'altro questo fa parte, o comunque deriva da questo articolo 41 bis, che insomma ci ha fatto correre un brivido lungo la schiena, perché fa pensare al 41 bis del carcere duro, per cui forse ci leveranno pure la ricreazione all'aria, i colloqui con i genitori li faremo dietro il vetro col citofono e così via, insomma, è l'ora di d'aria. Infatti molti ci hanno già fatto le battute sul nome della trasmissione, ma noi ce le avevamo fatte già da soli e sole, perché avevamo detto che avevamo portato un po' iella con questo titolo, che è l'ora di buco, è morta e sepolta. Che dire, insomma, le motivazioni per scendere in piazza sabato ci sono tutte, anche quelle per scendere in piazza mercoledì e anche quelle per starci permanentemente in piazza. Io manderei una traccia musicale, che ne dite? Sì, riprendiamo la trasmissione e stavamo discutendo dei lavori della Commissione parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione e volevamo ritornare proprio su quello che abbiamo appena letto, cioè sulla disposizione che l'attività dei docenti deve essere documentata da questo registro annuale e predisposto da ciascuna istituzione scolastica in conformità al proprio statuto, quindi di fatto la legge di stabilità già introduce quello che ancora non è stato realizzato dalla DDL 953 ex Aprea, che invece prevede che ogni scuola debba avere il suo statuto, quindi di fatto che sia una la fotocopia dell'altro pare davvero evidente. E pare evidente la presa in giro, diciamo così, dei parlamentari ai quali molti insegnanti e molte insegnanti si stanno rivolgendo con mail, con pressioni e che sono rassicurati da soprattutto i parlamentari del PD sul fatto che no, state sicuri, il comma sarà abolito, l'articolo sarà abolito. Di fatto non è così, quindi chi è diffidente come molti e molte di noi sulla bontà delle loro affermazioni ha i motivi per essere diffidente e continua a averli, visto che dentro alle leggi di stabilità vengono introdotte le stesse parole, lo stesso principio che è sancito dalla ex Aprea, benché diciamo emendato. E a proposito di entrata surrettiziamente di capitali privati dentro la scuola, cioè, anche nel decreto di semplificazione che fu approvato, questo decreto legge a febbraio del 2012, lì c'era già un progetto, un programma da parte del governo di elaborare un piano nazionale di edilizia scolastica. E cosa prevede questo piano? Che entro 2 anni dall'entrata in vigore di tale provvedimento verranno adottate misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili per appunto l'ammodernamento, e questo riguarda tutte le istituzioni scolastiche, comprese università e enti di ricerca, vigilati dal Ministero dell'Istruzione. Tant'è che stanno già nascendo dei protocolli d'intesa tra il MIUR e il primo progetto pilota verrà fatto a Bologna, che appunto ci sarà, questo protocollo prevede l'ammodernamento e il recupero del patrimonio immobiliare scolastico esistente. E dopodiché, siccome appunto allora, qui un po' di numeri, cioè gli edifici scolastici in Italia sono ben 44.000 per un totale di 54 milioni di metri quadrati, di cui l'88% di proprietà degli enti locali. Allora, e dicono, questa è l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, che dice che appunto la maggior parte sono tutte le scuole, sono praticamente quasi tutte 21.000 a rischio sismico, 34.000 a rischio idrogeologico e il 5% degli edifici ha presenza di amianto. Allora, la proposta che fanno questi costruttori in pratica, che quindi appunto agevolati dal decreto di semplificazione, è quella di fare rilanciare praticamente, utilizzare lo strumento della permuta. Cosa prevede questa permuta? Praticamente un comune, una provincia, di fatto le scuole al momento per quanto riguarda l'edilizia scolastica appunto sono gestite dalla provincia o dal comune, le superiori dalla provincia e gli istituti compresi dal comune, mi sembra, vero? Ecco, allora queste il comune e la provincia potrà cedere la proprietà di un edificio scolastico obsoleto a una società privata e al quale corrisponderà un canone annuo in proporzione agli studenti che frequentano l'istituto. E cosa farà l'azienda in cambio? Appunto, realizzerà a proprie spese gli interventi di restauro dell'edificio scolastico, oppure addirittura costruirà un nuovo edificio. Quindi poi non parliamo poi della speculazione edilizia, insomma, quindi molti edifici verranno buttati giù e ricostruiti, tutto ciò per arricchire le tasche dei soliti noti. E tornando alla manifestazione che ci terrà, sarà sabato prossimo, dovremo avere in linea, no, non abbiamo in linea nessuno, quindi non so se c'era qualcuno che voleva aggiungere qualcosa, se no mentre cerchiamo... Intanto che cerchiamo, ci sono? Sì, intanto sì, che senti. Cerchiamo di ripristinare il collegamento, volevo dal blog del sottosegretario Marco Rossi Doria, questo pensoso maestro di strada, che se tornasse a far maestro di strada sarebbe meglio, che risponde a un articolo sull'Unità e dice fra l'altro: ritengo che il punto di partenza di un vero confronto sul mestiere di insegnare debba puntare a rendere esplicito, riconoscibile e riconosciuto il lavoro svolto nel suo complesso. E uno dice: beh, un tema non separabile da quello della retribuzione. E i nostri insegnanti sono tra i malpagati in Europa, non è prevista alcuna forma di carriera, si fa fatica a riconoscere economicamente e professionalmente chi compie sforzi maggiori in termini di programmazione e attività. E questa è l'esplicitazione di quello che leggevamo dagli emendamenti del decreto di stabilità rispetto a questo bonus e a questa meritocrazia dilagante. No, prego, parla pure, perché è cascata di nuovo la linea. No, aspetta, la mettiamo un attimo un brano musicale, così lo facciamo in maniera un pochino più rilassata. Quelli che ascoltate sono I Fiati Sprecati, una banda di strada, e la trasmissione che state ascoltando è L'Ora di Buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola dai microfoni di Radio Onda Rossa. Pare forse che abbiamo un collegamento, vediamo se questa volta ci riusciamo. Pronto, ci sei? Io? Stai parlando con me? Eh? Oh, ce l'abbiamo fatta, aspetta, aspetta solo un attimo. Sì. Eccoti qua, ci sei? Ma sono in linea, sono in onda? Sei in onda. E sei okay. Dici da dove corrispondi. Allora, sono qui al Mamiani di Roma, al liceo di Roma, e sto assistendo appunto all'assemblea del coordinamento delle scuole di Roma, che sta ragionando sulla preparazione della manifestazione del 10 di sabato pomeriggio. Ci vuoi un po' raccontare cosa si sta dicendo in questa assemblea? Sì, guarda, in realtà l'assemblea purtroppo è iniziata non da moltissimo, per cui in particolare diciamo i coordinamenti studenteschi ancora non hanno preso la parola. Mi sembra che però complessivamente il dibattito si sta orientando sia su questioni più strettamente organizzative, che insomma forse poco interessano. La cosa che mi sembra più interessante è che si comincia a ragionare di consolidare, di organizzare un po' meglio il coordinamento di Roma, in modo tale che, come da più interventi è stato detto, questa realtà che si è creata un po' sull'onda dell'innalzamento 24 ore non si esaurisca qui. Ecco, insomma, io percepisco che da parte di molti insegnanti, di molti studenti, c'è un po' la volontà di alzare un po' la testa, ecco, dopo anni di passività, poi complessivamente, ecco. Quindi questo mi sembra un po' il punto su cui poi il coordinamento potrà svilupparsi, insomma. Senti Carlo, quindi ci sono tutte le componenti, sia docenti, sì, studenti, sì, assolutamente. Forse ATA, sì, è un'assemblea partecipata, siete in molti e molte. Sì, sì, è un'assemblea partecipata. Ti stiamo perdendo, stai fermo, forse scusa se mi permetto, ma forse ti muovi e la connessione telefonica va e viene. Ah, ok, sì, cerco di stare un po' fermo allora. Bravo. E non lo so, dal punto di vista organizzativo che si sta dicendo? Si parla di slogan, di striscioni, di spezzoni o... Sì, questa cosa purtroppo Elena, ancora, diciamo, come ti dicevo, l'assemblea è iniziata da poco e insomma ci stiamo un po' addentrando nelle questioni. Si dovrà discutere ovviamente dello striscione e dell'organizzazione della manifestazione, insomma, però ancora non ci siamo completamente addentrati su questa cosa. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Ho letto nelle mail del coordinamento che c'è anche una contemporanea mobilitazione a Piazza Mazzini con didattica in piazza. Ne sai qualcosa tu? Con didattica, scusami? In piazza, insomma, con lezioni in piazza, comunque una mobilitazione così lì a Piazza Mazzini. Ma oggi c'è stata? Sì, sì, dalle 15 alle 17 doveva essere. Sì, vabbè. Sì, sapevo anch'io di questa cosa, sì. C'è, diciamo che c'è stata, però da quello che ho capito, appunto, adesso siamo, insomma, ci si è concentrati qui sull'assemblea, insomma. Senti Carlo, tu mi confermi quindi che all'assemblea del coordinamento c'è una partecipazione anche nutrita di studenti, l'atteggiamento degli studenti nei confronti delle rivendicazioni? Pronto? Pronto? Sì, sento molto male. L'atteggiamento degli studenti nei confronti delle rivendicazioni dei loro insegnanti è un atteggiamento aperto? Le recepiscono, le comprendono? Sì, secondo me sì, secondo me molto. Io lo vedo anche al di là di questa assemblea, insomma, lo vedo anche nella scuola dove lavoro. L'atteggiamento degli studenti è estremamente aperto rispetto a questa cosa. Loro stanno ragionando complessivamente su due punti, cioè da una parte c'è il disegno di legge Aprea che li colpisce per primi, insomma, colpisce i loro spazi democratici. Quindi infatti la mobilitazione sostanzialmente ha come primo punto, no, la manifestazione del 10 ha come primo punto in piattaforma il rifiuto del disegno di legge Aprea, che è il punto più unificante. Dall'altra parte però mi sembra che da parte degli studenti c'è anche la consapevolezza che l'innalzamento dell'orario di cattedra degli insegnanti significherà una minore qualità della didattica, e quindi anche sotto questo aspetto si sentono colpiti. Quindi direi che va, diciamo, al di là decisamente della solidarietà nei confronti degli insegnanti, insomma, mi sembra che gli studenti stiano ragionando su ciò che interessa a loro come studenti, insomma, ecco. Quindi mi sembra che la mobilitazione in questo momento risulta unitaria in modo, direi, abbastanza naturale, insomma, perché ognuno è sotto attacco complessivamente, ecco, ognuna delle componenti. Senti Carlo, tu partecipi al coordinamento precari di Roma, che sarà in piazza ovviamente, e perché questa è una manifestazione anche contro il precariato, insomma, ricordiamolo, non solo contro la Prea, non solo contro gli ennesimi tagli alla scuola, ma anche contro il precariato, e voi appunto sarete in piazza anche su questi temi. Sì, no, assolutamente, noi appunto anche sotto questo aspetto mi sembra che la mobilitazione attualmente registra una novità, cioè precari e docenti di ruolo, cioè docenti a tempo indeterminato, sono molto vicini su questo aspetto. Per esempio, come avrete visto, finally direbbero gli inglesi. Pronto? Si dica, alla fine ce l'abbiamo fatta, insomma. Esattamente. No, la cosa insomma interessante è che la mobilitazione di sabato ha i punti anche il no al concorso, che se vogliamo in un primo momento era, come dire, era una rivendicazione sostanzialmente del solo movimento dei precari. Invece sotto questo aspetto io registro veramente una, come dire, una sensibilità particolare anche dei colleghi di ruolo, insomma, che hanno da una parte solidarizzato, dall'altra, come dire, anche un po', secondo me, sottilmente avvertito che la, come dire, la macelleria a cui saremo sottoposti nei precari con i test, i quiz eccetera, sostanzialmente sul piano strategico di lungo termine potrebbe coinvolgere anche loro. Insomma, voi sapete che i vari tentativi di, come dire, di la cosiddetta valutazione degli insegnanti, gli scatti di carriera, ecco, potrebbero un giorno non lontano essere legati al superamento di questa roba, sì. Insomma, ecco, quindi anche sotto questo aspetto mi sembra che ci sia una sensibilità unitaria, insomma. Sì, fra l'altro, per dare un minimo di profondità storica a questo discorso, riporto l'intervento. Io stamattina ho partecipato a un'assemblea RSU di tutte le scuole secondarie di Ostia. Una collega ricordava che questo concorso che è stato indetto adesso da Profumo ricorda strettamente il concorso del 91, che lei dice aveva avuto caratteristiche simili. Lei dice che grazie al fatto che fu introdotto quel concorso e sospesa la graduatoria per quel concorso, lei si è fatta 27 anni di precariato e adesso va in pensione senza ricostruzione di carriera, insomma, tanto perché chi ci ascolta capisca cosa significa poi riuscire a uscire o meno da una situazione di precarietà. Scusa Carlo, prima di lasciarti volevo anche c'è stato un fatto molto grave, insomma, il suicidio di un lavoratore precario della scuola, di un insegnante di Napoli. Voi come coordinamento precari avete preso parola su questo suicidio? Sì, è stato, guarda, è stato già citato più volte negli interventi durante l'assemblea. Io, insomma, su questa cosa, come dire, non mi piace fare, no, un po' di retorica su questo gesto così un po' tragico, no? Però secondo me, come dire, io in un certo senso capisco quello che questa persona in qualche modo ha fatto. Lo dico appunto da insegnante precario. Io devo dire che in questi mesi, dopo la Gelmini, con questo governo in particolare, come dire, io ho vissuto, ecco, quotidianamente con il terrore che dal ministero arrivassero attacchi, ed arrivavano quotidiani. E quindi, ecco, adesso senza retorica, però, che poi quella rabbia, no, che di vederti appunto privare della tua dignità, ecco, col concorso, con le cattedre che sono sempre di meno, quindi con l'incubo della disoccupazione, insomma, al di là veramente degli aspetti, come dire, più retorici che uno può spendere in questi casi e che pure il ministro ha speso, ecco, su questa cosa mi fa riflettere, ecco, mi fa sentire questo gesto, ecco, anche in qualche modo un po', non dico mio, però insomma mi fa sentire vicino a questa. Ecco, capisco, come possiamo dire, la sensibilità che può aver portato a una cosa del genere, ecco, diciamo così. Diciamo noi abbiamo veramente vissuto una quotidianità di esasperazione continua che immagino in alcune persone possa scadere in disperazione, insomma. Per noi ovviamente si traduce in una sempre maggiore volontà di lotta, però obiettivamente abbiamo vissuto sotto attacco quotidiano, con la sensazione di venire continuamente spogliati di tutto quel poco che ci avevamo, ecco, diciamola così. La rabbia portiamola insieme in piazza, cominciamo sabato a portarcela. Esattamente. E ti ringraziamo per la corrispondenza, okay, dall'assemblea del coordinamento. Grazie Carlo. Va bene, grazie a voi. Ciao. Ciao. Siamo quasi, sì, in chiusura. Io, visto che abbiamo proprio una manciata di minuti, volevo richiamare un po' quello che diceva anche Carlo, quello che abbiamo detto prima, che si ripropone praticamente il concorso interno, chiamiamolo così, della fine degli anni Ottanta, quello che poi fu, mi pare, proposto da Berlinguer, di valutazione dei docenti in servizio con progressioni quindi di carriera legati a una valutazione appunto di tipo concorsuale. Quella cosa fu respinta, ma poi tutto quel patrimonio di lotte in effetti in un certo senso è andato perso. Rispetto alla cosa del concorso vi racconto una cosina brevissima, il concorso che c'è adesso per passare appunto a tempo indeterminato, che domani scade, alle ore 14 di domani dovranno essere già inserite le domande, quindi dovranno essere state fatte l'iscrizione, l'identificazione da parte delle scuole. Io sto in segreteria, non è una cosa da poco. E che ha fatto il Ministero in questa questione? Ha pensato bene di mettere il sito in ristrutturazione, quindi da ieri mattina il sito era inarrivabile, grazie veramente all'abnegazione, perché bisogna dire così, del personale, si è riusciti a capire tramite Google che c'era un modo per entrare di sguincio, diciamo, e riuscire a fare il nostro lavoro, perché poi il sito istanze online era accessibile, ma se tu non eri identificato dalla scuola ci facevi poco. E quindi questo dà un po' il quadro. Sarebbe bastato fare un comunicato, un messaggio in posta elettronica a tutte le scuole e si sarebbe ovviato. Stamattina abbiamo chiamato il nucleo di supporto, come pomposamente si chiama, al telefono, e dopo qualche istante di silenzio la Telecom ci ha informato che il numero era inesistente. Siamo veramente ha proprio, non lo so, ha qualcosa che nemmeno se in un film dell'orrore ti verrebbe in mente di immaginare. E chiudiamola sta scuola pubblica a questo punto, perché ci è rimasto veramente poco. E nelle risate generali, un po' di disperazione, un po' no, prima di chiuderla, tutta la scuola in lotta, sabato 10 novembre alle 14:30 all'Esquilino. Con questo L'Ora di Buco vi saluta e vi dà appuntamento a martedì prossimo, il 13, la vigilia dello sciopero generale. Ma voi non salutate, no? Sì, sì. Ciao. Ciao. Ciao. Cara maestra, un giorno mi insegnavi